24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:30 minuti, cari ascoltatori, eccoci con 24 mattino. Prima di andare alla lettura dei giornali, il sondaggio di oggi, di cui poi ci occuperemo approfonditamente alle 8:30, ma voi potete già votare su radio24.it o ilsole24.com. Ci siamo caduti anche noi. Il televoto. Sanremo e le polemiche sul televoto. Oggi ne sono pieni ancora i giornali perché ormai si sta diffondendo, siamo o no nella patria del complotto, del complottismo, l'idea che sia stato tutto un mega trucco, la vittoria a Sanremo decisa dal televoto, il simbolo, secondo alcuni, della democrazia popolare davanti alla TV. Voi lo abolireste, questo televoto? State già votando in molti ed è un plebiscito, più o meno l'83% di voi dice sì, lo abolirei. Votate, ne parliamo poi alle 8:30, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Dacci oggi il verbale o l'interrogazione o l'intercettazione quotidiana. È ancora il G8, la polemica sull'inchiesta. L'inchiesta che rischia davvero di creare grattacapi enormi alla politica che conquista le prime pagine dei giornali. Palazzo Chigi, nessun incontro. Questo è il titolo del Corriere della Sera, nota per smentire riunioni segreti. Ecco i nuovi verbali. Per Repubblica, appalti, Fini contro Berlusconi, i PM non devono vergognarsi. La Stampa, associazione a delinquere, appalti, l'accusa si aggrava. Il Giornale pubblica i verbali degli interrogatori. Appalti G8, gelo tra procure, questo per il Messaggero. Insomma, come vedete, il Fatto Quotidiano, l'Italia si è rotta. La rabbia dei terremotati contro le bugie del TG1, la protesta a Sanremo contro i raccomandati, addirittura terremoto e Sanremo sullo stesso piano. Per il Sole 24 Ore, tra l'altro, propone un'interessante intervista che vedremo al comandante della Guardia di Finanza. Il fisco migliora gli incassi, il tema è soprattutto la lotta all'evasione fiscale. Un tema annoso in Italia. Ma come detto, dacci oggi l'intercettazione, gli sviluppi quotidiani sull'inchiesta del G8. Partirei proprio dal Corriere della Sera, questa nota di Palazzo Chigi che ieri ha fatto appunto, dopo le polemiche su un presunto incontro tra Balducci, il funzionario, uno degli arrestati per corruzione, e un incontro con un fantomatico zio preannunciato da una chiamata. Ecco la nota di Palazzo Chigi. Non è certo a Palazzo Chigi quello zio che qualcuno cerca il 30 gennaio, e neppure quel fantomatico altro con il quale qualcuno vorrebbe fare il punto il 29 gennaio. È che questo zio sarebbe stato trovato. Si tratta banalmente del medico personale di Angelo Balducci. Renato Lauro, Mister X, sono io, sono un medico, non sono un boss. Viene intervistato e raggiunto un po' da tutti al Corriere della Sera, che ieri aveva puntato molto su questo incontro tra Balducci e questo zio, dicendo e interrogandosi ma chi sarà questo zio che Balducci voleva incontrare in tutta fretta il giorno prima dell'arresto, sostanzialmente. Eccolo qui, Renato Lauro. Lauro è rettore dell'Università Vergata Romana di Tor Vergata, solerte al telefono, fa vedere, ecco qui l'incontro sull'agenda, sono io lo zio di cui si parlava nelle intercettazioni, sono il suo medico di fiducia, sostanzialmente mi chiama zio da anni, guardi, nessun mistero, non sono Bernardo Provenzano, sono un medico, lui al telefono è un ragazzo che l'ho visto crescere, è lui che di solito mi chiama zio Renato. E perché Balducci le chiese quell'incontro? Anche su questo, quanti voli pindarici. Lui il giorno dopo doveva venire a fare degli esami al Policlinico Tor Vergata. Io sono rettore di Tor Vergata, ma il lunedì non mi avrebbe trovato in ospedale perché avevo degli impegni, così la domenica gli serviva la prescrizione per fare quelle analisi. Tutto qui, davvero. Quindi il mistero dello zio di questo fantomatico incontro sarebbe poi un incontro con il medico, o per agevolare un incontro con il medico per una prescrizione medica. Insomma, sembra un po' l'inchiesta degli equivoci, o comunque dei doppi sensi, o comunque delle intercettazioni dove Molto c'è, ma molto ancora c'è da accertare, tanto che basta vedere i verbali degli interrogatori. Pagina 2 e 3 li pubblica Il Giornale. Ci sono tutti, a domanda rispondo, questa la classica formula della risposta di Balducci, della Giovanpaola, di Diego Anemone, insomma le persone che sono state interrogate. Mauro della Giovanpaola che dice per esempio c'erano 2700 unità impiegate alla Maddalena, non dovevamo fermare i lavori, avremmo avuto problemi con i dipendenti che sarebbero rimasti disoccupati. Della Giovanpaola che delle escort presunte a Venezia dice: non sono mai stato con una donna a pagamento, sono felicemente sposato, quelle telefonate che mi citano era solo uno sfottò tra di noi, non ho consumato mai nulla. Balducci invece che dice: io Tangenti sono un uomo ricco, guadagno 2,5 milioni di euro l'anno, non mi servono. Insomma, tutti che smentiscono assolutamente, dicendo anche la questione volevamo andare all'estero, ma che volevamo andare all'estero, quel viaggio a Madrid, dice Balducci, per il quale sarebbe stato arrestato, dicendo vedete sta per fuggire all'estero, quel viaggio a Madrid non era un tentativo di fuga. Insomma, i verbali oggi tengono banco sui quotidiani, mentre Libero annuncia a pagina 6: Firenze prepara altre manette, a breve sarebbe pronto un nuovo arresto. Ormai siamo all'annuncio degli arresti via stampa. A chi? Beh, insomma, questo è chiedere troppo. Chissà se ci sarà, lo scopriremo. Intanto ovviamente la politica si interroga su quello che sta succedendo. Io vi segnalo, prima di parlare di quello che ha detto Fini con un nuovo conflitto con Berlusconi, almeno delle dichiarazioni, vi segnalo un'intervista che Aldo Cazzullo ha fatto a Pisanu, Giuseppe Pisanu, presidente della Commissione Antimafia. La corruzione è dilagante, l'Italia può restare schiacciata. Pagina 6, è un Pisanu molto duro, attenzione, perché dice: Tangentopoli, per certi versi ora siamo oltre. Allora crollò il sistema del finanziamento ai partiti. Oggi è la coesione sociale, la stessa unità nazionale a essere in discussione, al punto da venire apertamente negata anche da forze di governo. Sono giorni che vado maturando queste parole, dice Pisanu. Esitavo a dirle perché mi parevano eccessive, apocalittiche. Poi mi sono ricordato che in Giovanni il linguaggio apocalittico è l'altra forma del linguaggio profetico. Quindi non credo di esagerare se dico che è il paese a essere corrotto. Insomma, molto forte questa accusa, poi analizza, insomma, sia la corruzione endemica, sia quella della denunciata alla Corte dei Conti, sia quella della criminalità organizzata, l'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra. Ma certo, l'incipit è davvero apocalittico, per l'appunto, quello di Pisanu. È il paese a essere corrotto, è il paese, la coesione sociale che ora rischia un'implosione, perché la differenza è con Tangentopoli, che allora crollò il sistema dei partiti, mentre pare di capire, secondo Pisanu, che ora non c'è neanche questa rete protettiva attualmente di partiti forti, e che quindi c'è il rischio proprio di un'unità che vada sgretolandosi. Dicevamo invece, la politica si interroga anche ovviamente sotto l'ombrello gigante, l'ombrellone di questa inchiesta del G8, si interroga su dove stiamo andando. Ecco il nuovo, in qualche modo, scontro tra Fini e Berlusconi, perché ieri Fini, intervenendo alla pubblicazione di un libro, ha detto 5 anni, innanzitutto ha proposto questa leggina, facciamo una leggina, 5 anni di non candidabilità per chi ha ricevuto delle condanne definitive contro la pubblica amministrazione. E poi ha detto: i PM non si devono vergognare. È una replica a quello che Berlusconi disse, per la verità disse nell'immediato: si vergognino i PM, dopo che furono pubblicate le prime notizie dell'inchiesta. Poi Berlusconi, a dire il vero, negli ultimi giorni ha parlato molto meno della stessa inchiesta. C'è da dire che Repubblica analizza proprio questo nuovo fronte a pagina 2 e 3 di confronto, o dice il quotidiano di Ezio Mauro, scontro tra Berlusconi e Fini. Secondo Liana Milella, a pagina 3, tutti gli occhi sono puntati su cosa? Su giovedì. Giovedì 25 febbraio c'è l'udienza alla Corte Suprema di Cassazione per il processo contro David Mills, accusato di corruzione in atti giudiziari, sulla cui testa pende una condanna a 4 anni, 6 mesi. È un'udienza sicuramente determinante per anche Berlusconi, che inizialmente era coinvolto in quel processo. Insomma, che è un processo che sicuramente sul quale c'è molta molta attenzione. E tra l'altro, scrive Liana Milella, non si aspettava Berlusconi proprio in questo momento, con la tempesta di Bertolaso addosso, le ombre su Letta, era certo di ottenere la massima solidarietà da Fini, invece questi distinguo lo indignano, continua sempre per la sua strada, ma gliel'ho sempre detto, se cado io tanto cade pure lui. Tra l'altro, su questa udienza di giovedì il Sole 24 Ore spiega con Donatella Stasio anche una cosa, se vogliamo, curiosa, magari per i non addetti ai lavori. Vale a dire questo: Palazzo Chigi in Cassazione contro Mills. Ebbene sì, ci sarà anche la presidenza del Consiglio giovedì nell'aula delle Sezioni Unite della Cassazione, dove si celebra l'ultimo atto del processo a David Mills, da cui dipende appunto la sorte del presidente del Consiglio Berlusconi, che è coimputato dell'avvocato inglese già condannato per corruzione giudiziaria. Ci sarà dunque Palazzo Chigi, sebbene in Cassazione la presenza della parte civile non sia obbligatoria, e tra l'altro chiederà la conferma della sentenza d'appello, cioè chiederà la condanna di Mills a 4 anni e mezzo di carcere e anche al pagamento di 250.000 euro alla presidenza del Consiglio. Dunque, l'avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara ha spiegato: sì, saremo lì e chiederemo la condanna di Mills, che in qualche modo è un qualcosa che va contro il presidente del Consiglio e dunque contro lo stesso Palazzo Chigi, ma insomma qui è una questione di istituzioni, cioè l'avvocatura generale dello Stato fa gli interessi dello Stato. E tra l'altro l'avvocato generale Fiumara ha detto: sosterremo lo stesso assunto di primo e secondo grado, il governo non indica mai se essere buoni o cattivi. E dunque questa è la linea curiosa, cioè Palazzo Chigi sarà in Cassazione contro però Mills, con la presenza dell'avvocatura dello Stato, e dunque si può dire per traslato in qualche modo contro lo stesso Berlusconi, che però è a sua volta presidente del Consiglio e siede a Palazzo Chigi. Vabbè, questo è quello che ci offre la politica oggi. Vorrei anche citarvi un D'Alema che è andato a Londra, alla London School of Economics, e ha fatto un discorso, ha risposto a varie domande. Il conflitto di interessi, lo leggiamo sulla Stampa, il conflitto di interessi, udite bene D'Alema, anche a farlo non cambiava nulla. Svela questo retroscena: un giorno chiesi a Gianni Letta cosa avrebbero fatto se avessimo approvato la legge sul conflitto di interessi e lui rispose che erano pronti. Un minuto dopo Berlusconi sarebbe andato in TV annunciando che donava le sue televisioni ai figli perché i comunisti l'avevano espropriato. Insomma, sarebbe cambiato poco. Berlusconi avrebbe vinto le elezioni con 1 milione di voti in più. Interessante, sicuramente rinfocolerà anche le polemiche su questa dichiarazione di D'Alema, che dice il conflitto di interessi, ma sì, non sarebbe servito a granché. Questo è il panorama che ci offre la politica. Andiamo a vedere quella che è l'apertura del Sole 24 Ore. Come detto, si dedica all'evasione fiscale. Il fisco migliora gli incassi, la Guardia di Finanza rafforza l'attività di contrasto all'evasione e i trasferimenti di capitale all'estero, mentre la riscossione recupera 1,5 miliardi di euro dai grandi debitori dello Stato. È un'intervista, tra l'altro, al comandante della Guardia di Finanza, fatta da Marco Mobili, la trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Cosimo D'Arrigo, 64 anni, parla dell'attacco frontale alle finte imprese che operano soprattutto dove? A San Marino. E infatti il titolo è questo: D'Arrigo, con 1660 ispezioni abbatteremo l'evasione estera. San Marino è un intollerabile paradiso fiscale in casa. Sono 1660 tra verifiche, indagini di polizia giudiziaria, altre investigazioni, casi di trasferimenti di capitale, investimenti all'estero non dichiarati, esterovestizioni di persone fisiche, società, riciclaggio di proventi, di evasione di paradisi fiscali. Non c'è solo San Marino, ovviamente, fa sapere il comandante D'Arrigo, ma certo parte questa nuova offensiva che sta andando avanti, per la verità, e che il comandante D'Arrigo spiega in questa intervista al Sole 24 Ore. A proposito di, non è evasione fiscale, ma diciamo, possiamo dire truffe allo Stato, perché poi l'evasione fiscale, questo è, oltre che un reato, una truffa allo Stato, un'inchiesta interessante che troviamo anche su Repubblica, due pagine, 24 e 25, l'annoso problema dei falsi invalidi. Boom di falsi invalidi, ecco le truffe che ci costano 1 miliardo di euro l'anno. Così funziona la rete dei venditori di pensioni. Sono Paolo Griseri, Emanuele Lauria, che spiegano in queste due pagine centrali, e tra l'altro con anche ci sono fotogrammi di video ripresi con telecamere nascoste. Per esempio a Napoli sono stati immortalati in alcuni video alcuni ciechi o finti ciechi che parcheggiano l'auto, altri che leggono i giornali, alcuni la storia dell'assessore comunale che prometteva pensioni in cambio di voti, perché molto spesso soprattutto al sud lo zampino della politica c'è, cioè sono permessi falsi invalidità in cambio poi di voti. Così funziona la rete dei venditori di pensioni, ecco il boom dei falsi invalidi, ci costa circa, secondo le stime date da Repubblica, 1 miliardo di euro l'anno, pagina 24-25, ecco come funziona, i benefit, i paesi a due velocità, lo zampino della politica, il miliardo in fumo con questa insomma truffa gigante che va avanti da sempre, dei boom, dei falsi invalidi per l'appunto. Allora ci fermiamo per il traffico, poi troveremo tante altre notizie anche di cronaca e anche la disfida, pare, tra Santoro e Travaglio. Sono vicini alla rottura? In primo piano. Caro Marco, ti scrivo con franchezza. È Michele Santoro che, dopo la lite furibonda avvenuta ad anno zero la scorsa settimana tra, da una parte, Travaglio, dall'altra Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, e Nicola Porro, il vice direttore del Giornale, che gli rinfacciavano: attenzione, anche tu hai avuto frequentazioni in passato ambigue, Travaglio si è adombrato, ha detto, poi ha preso carta e penna, ha scritto sul Fatto dicendo: io non riesco più a controbattere con questi pseudo giornalisti che vengono solo per calunniare e buttarla in caciara. Ebbene, oggi Michele Santoro, carta e penna, risponde sempre sul Fatto a Travaglio. Ed è una risposta abbastanza dura, tanto che, guardate, Libero titola in prima pagina, che tra l'altro è come se sapesse già il senso della lettera pubblicata oggi da Santoro: Santoro scarica Travaglio, il presentatore dà una lezione al suo opinionista, non puoi chiedermi di censurare il centrodestra. Effettivamente Michele Santoro scrive così, è una lunga paginata: vivrei una tua decisione di prendere le distanze ad anno zero con grande amarezza, ma non sarebbe tuttavia una tragedia o una catastrofe. Nel corso della mia lunga esperienza tanti miei amici e collaboratori hanno scelto o dovuto scegliere di percorrere altre strade. Poi anche con questa frecciatina: già scrivi per il Fatto, hai un blog, vai da Beppe Grillo, hai i libri, potresti fare tranquillamente a meno di anno zero. Questo è l'incipit, tanto per dire il clima qual è. E poi insomma gli dice sostanzialmente: mi inventerò qualcosa, ma tu non sei depositario della verità, la verità non si stabilisce peraltro in un programma televisivo, hai perso il lume della ragione, hai saputo schivare e incassare molti colpi bassi, ma questa volta è bastata una banalissima insinuazione di Porro per farti perdere il lume della ragione, hai frequentato un sottufficiale dell'antimafia prima che venisse condannato per favoreggiamento. Scusa, qual è il problema morale? Quali sconvolgimenti ha creato nella percezione che i nostri ascoltatori hanno di te questo genere di insinuazioni? Nessuno. Insomma, ma è una lunga pagina, non posso riassumerla, però dice: tu pensi che Belpietro o Porro o Ghedini siano soltanto un prezzo pagato alla par condicio, quando per me rappresentano quel vuoto necessario di scrittura che rende la trasmissione imprevedibile. E dunque difende Santoro la legittimità di dire: li riporterò in onda, altro che. Andremo a capire, c'è anche la controreplica di Travaglio, che succederà giovedì, si presenterà in onda, non si presenterà in onda, boh, lo scopriremo alla prossima puntata. Voglio segnalare che cosa dal Sole 24 Ore, questa notizia prima del televoto, sì, Sanremo. A Napoli l'autovelox non sarà repressivo. È vero, non deve essere repressivo, cioè non si vuole che la polizia municipale si infratti tra le frasche o dietro le curve o tra gli arbusti per carpire le multe, questo sì, solo che in campagna hanno fatto tanto di legge regionale, cioè dire ci deve essere prevenzione con l'autovelox, ma non repressione. Che vuol dire? Vuol dire che c'è, come scrive il Sole 24 Ore, non c'è rischio che l'equazione semantica repressione uguale sanzione porti poi a contestare tutte le multe? Staremo a vedere, il rischio è questo. A Napoli hanno fatto questa legge, o meglio in Campania, una legge che dice l'autovelox deve essere di prevenzione ma non di repressione. Il rischio ora è che tutti noi furbacchioni, o meglio tutti voi furbacchioni campani, ve ne approfittiate per dire per me l'equazione è sanzione uguale repressione e dunque faccio ricorso, e chissà, forse la Campania sarà la prima regione dove l'autovelox con questa legge rischia di essere messo in cantina. Ebbene sì, il televoto. Cosa c'è di meglio di un voto sul televoto? Noi lo facciamo oggi. Ebbene sì, Sanremo, anche perché ragazzi non si può prendere giornale senza che non ci siano le polemiche su Sanremo. Scippo a Sanremo! Lo urla Libero, che con il vice direttore Franco Bechis sostiene che fino a 4-5 minuti prima della vittoria di Valerio Scanu avevano vinto loro, il trio, quello del principe che non si può più chiamare principe, di Pupo e del tenore che non ricordo come si chiama, forse Canonici, ma forse mi sbaglio. E poi panico in Rai, poi ecco che Valerio Scanu in 5 minuti recupera di 20.000 voti, recupera 220.000 voti, in 5 minuti, e qui Libero dice ma chissà come, e supera di 20.000 lunghezze il trio, salvando dal panico la Rai. C'è Maria De Filippi che fa un'intervista al Corriere della Sera, io conduttrice mai dire mai l'anno prossimo, e poi dice il televoto va difeso, basta questa accusa, il televoto è un simbolo di democrazia, così come toccateci tutto ma non il televoto, il fatto. Non c'è giornale che non faccia paginate, Repubblica, le tre pagine interne centrali nella fabbrica del televoto, ecco come funziona. Ci sono stati anche i casi passati come Lele Mora, che si è autoaccusato di aver speso 25.000 euro per servizi di call center per far vincere Walter Nudo all'Isola dei Famosi, e Walter Nudo vinse peraltro. Insomma, c'è chi dice manipolarlo si può, c'è chi dice manipolarlo non si può, è il simbolo della democrazia. Che ne pensate? Va abolito secondo voi? Ne parleremo alle 8.30. Voglio chiudere con lui, una persona che a me, milanista, sta simpatica. O meglio, stava simpatica, devo dirlo, devo ammetterlo, è Mourinho. Io da milanista l'ho sempre trovato simpatico. Uno che ha rotto un po' gli schemi del calcio, sempre molto ipocriti, uno che ha parlato chiaramente. Ora però, caro Mourinho, glielo dico da uno che si chiama Milan di cognome, forse stiamo un po' esagerando, è caduto anche lui nel complottismo italiano. Quel simbolo di Mourinho con l'emblema delle manette si è beccato 3 giornate. La stangata, leggo da Repubblica, ma c'è un po' ovunque, c'è sulle prime pagine dei giornali. Mourinho, c'è un Gianni Mura molto duro, sentenza assolutamente giusta, scrive su Repubblica. Ebbene sì, è una delle immagini che sicuramente riassumerà il campionato di quest'anno. Mourinho che all'ennesimo fischio arbitrale, a suo modo di vedere scorretto, sabato contro la Sampdoria, ha mimato questo gesto delle manette. Poi ha detto no, ma l'avete interpretato male, volevo solo dire che dovete ammanettarci per perdere. Ma sarà 3 giornate a lui, cambiasse Muntari 2 giornate, una ad altri, insomma l'Inter l'ha stangata. Sono le 8:17 minuti, eccoci qua 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Siamo con Deborah Rosciani. Buongiorno. Buongiorno. Buona giornata a tutti, anche a te naturalmente. Bene, di che parliamo oggi? Parliamo di credito al consumo, dei prestiti sottoscritti dalle famiglie italiane negli ultimi anni, sono stati tanti. Pensate che questo mercato, il mercato del credito al consumo nel nostro paese, vale attualmente 110 miliardi di euro. Nel 2002 valeva 46 miliardi, quindi è un mercato, quello dei finanziamenti per acquistare l'auto, il finanziamento per acquistare l'arredamento nuovo della casa, per acquistare il telefonino, che praticamente è quasi triplicato in 7 anni. Allora, Visto, come dire, il contesto enorme nel quale questo settore viaggia, il Parlamento si è interrogato intanto su come mai ci sia stata questa crescita enorme e soprattutto come vengono venduti i prodotti di finanziamento ai consumatori. E allora c'è stata questa indagine condotta dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati e il Sole 24 Ore di ieri ha pubblicato il risultato di questa indagine. L'inchiesta è stata condotta da giugno 2009 fino praticamente a pochissime settimane fa. E ci sono state sostanzialmente 35 sedute, più di 40 audizioni con gli operatori del settore e con gli organi di vigilanza, fra cui anche la Banca d'Italia. Il problema principale che si riscontra, secondo quanto è emerso, è che esistono ancora scarsissime tutele per i consumatori che non sono sempre consapevoli delle caratteristiche dei prodotti di finanziamento che comprano e allora che sottoscrivono. Allora questa mattina di tutto questo parliamo non con una banca, non con una finanziaria, non con un'associazione dei consumatori, ma con un arbitro super partes, il professor Gerardo Villanacci, docente di diritto privato all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere con noi a Soldi e Dintorni, Radio 24, e anche autore del libro Consumo e consumismo, fenomeno sociale e istanze di tutela, per cui una personalità che da tempo cerca di, come dire, condurre dei monitoraggi, anche probabilmente per conto dell'università, professore, su questo settore che ha avuto questa crescita enorme. Intanto le chiedo se ha visto l'esito dell'indagine della Commissione Finanze della Camera e se in qualche maniera, come dire, quello che emerge, la necessità di maggiori tutele per i consumatori, la sorprende. No, non più di tanto. Sì, ho visto l'indagine conoscitiva della Commissione Finanze, della Sesta Commissione. Per la verità, largamente condivisibile sono le preoccupazioni espresse dai deputati, anche se devo dire il fenomeno non è nuovo e la preoccupazione era stata già evidenziata anni fa. Lei prima parlava di un aumento esponenziale, no? Dei 110 miliardi che attualmente rappresenta l'indebitamento delle famiglie italiane. C'è stato un aumento enorme negli ultimi tempi, ma 2 anni fa era di 100 miliardi questo indebitamento, quindi la crescita, il trend di crescita è ormai in atto da molto tempo e le preoccupazioni anche. Mm-hmm. Adesso esploreremo proprio queste, professore. C'è però da dire che in ogni caso la crisi anche su questo comparto si è fatta sentire, lo sappiamo bene che soprattutto l'anno scorso ci sono state molte meno erogazioni di mutui nel nostro paese, anche di prestiti, anche se Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi qualche settimana fa a Napoli ha detto che da parte delle famiglie la domanda di prestiti continua ad essere ancora piuttosto sostenuta, così come anche la risposta da parte delle banche, l'offerta continua ancora ad essere garantita da parte del sistema bancario. In ogni caso, nei primi 8 mesi del 2009, e quindi mi riferisco ancora all'anno scorso, le erogazioni di credito al consumo sono scese dell'11,8% a 37 miliardi, con molte differenziazioni a seconda dei prodotti. Sono scesi molto i prestiti personali e finalizzati, ma stanno continuando ad aumentare i prestiti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio. Professor Villanacci, cosa vuol dire questo? Giusta puntualizzazione. Beh, prima soltanto fino a qualche anno fa, probabilmente soltanto fino al 2008, si pensava al credito al consumo per l'acquisto di auto di lusso, vacanze esotiche, meraviglie dell'high tech. Oggi, e non soltanto nel 2009-2010, ma già nel 2008 ci si indebitava per sopravvivere. Aumentano i prezzi, cala il potere di acquisto, le famiglie devono ricorrere ai prestiti per l'acquisto di beni di consumo. Questo è un dato incontrovertibile, anche se È utile sottolineare che nonostante l'aumento di cui si parlava poc'anzi, gli italiani, le famiglie italiane risultano meno esposte di altre europee, per non parlare poi della situazione americana, infatti, dove tra l'altro sta entrando in vigore, vorrei ricordare agli ascoltatori, anche la riforma delle carte di credito, di cui probabilmente parleremo nei prossimi giorni a Soldi e Dintorni, forse anche già domani mattina, anche magari per capire le differenze con l'Italia e rassicurare chi la carta di credito ce l'ha e la usa, professore, anche con criterio, naturalmente. Sì, altri aspetti da considerare. La Camera ha indagato anche sull'aspetto, professor Villanacci, dei costi dei nostri prestiti, che continuano ad essere leggermente superiori a quelli ai costi appunto praticati nelle altre economie europee. Beh, in intanto un piccolo passo indietro semplicemente per dire che effettivamente il vulnus vero è rappresentato proprio dalle carte di credito, perché adesso, senza fare distinzioni che sarebbe anche utile fare nell'ambito delle carte di credito, certamente quelle cosiddette revolving costituiscono, come dire, gli oneri maggiori per i consumatori. Poi sì, effettivamente sotto il profilo dei costi c'è da segnalare proprio come risultino quelli italiani più alti rispetto ad altri paesi, comparandoli ad altri paesi, e infatti una delle segnalazioni fatte dalla sesta commissione della Camera dei Deputati è quella di svolgere sempre un'indagine comparativa con altri ordinamenti, con altri paesi, per evitare che vi sia un'esposizione notevolmente maggiore a questi. Montecitorio ha, ovviamente, lo abbiamo detto dall'inizio della trasmissione, messo in evidenza tutte le criticità del settore, sostenendo che è necessario un nuovo intervento legislativo. Un paio di legislature fa, forse anzi la scorsa, il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pinza ha provato a portare avanti appunto una riforma del credito al consumo senza risultato. Secondo lei che cosa è necessario fare nel nostro paese per renderlo completamente trasparente e quindi completamente fruibile in maniera consapevole da parte del consumatore? Intanto io ricordo che qua parliamo di una legge del 1993, il testo unico bancario ha introdotto nell'articolo 121 per l'appunto il credito al consumo e lo ha regolamentato. A proposito di leggi, deve essere recepita una direttiva comunitaria, la 208 del 48, che credo in qualche modo darà un contributo proprio per una maggiore trasparenza. Quindi il primo punto è il recepimento di questa direttiva comunitaria, che dovrebbe avvenire da qui a breve. Però, se posso dire, la questione è sicuramente tecnica, e quindi rilievo, diciamo, l'indagine conoscitiva sul credito al consumo da parte della Commissione è stata ed è sicuramente utile, lancia un allarme che peraltro era stato già lanciato anche dal governatore della Banca d'Italia, ma c'è un profilo che viene completamente disatteso, che è quello culturale, il superamento, a mio modo di vedere, del consumo simbolico, che è diventato negli ultimi tempi soprattutto eccessivo. Quindi indagare di più sulle motivazioni per cui le famiglie italiane, che non sapevano assolutamente indebitarsi fino a 10 anni fa, adesso lo fanno, e lo fanno a volte in maniera anche un po' non totalmente consapevole. Esatto, è questo. Perfetto. Quindi il punto? Perfetto, questo a mio modo di vedere è, non voglio dire prevalente, ma sicuramente... È importante, allo stesso modo come è utile svolgere un'attività conoscitiva, consentire una maggiore trasparenza, una maggiore tutela per i consumatori, ridurre i costi, il rischio dei tassi di usura. Questi sono tutti aspetti tecnici importanti, rilevanti, ben posti in evidenza, ma c'è quel profilo culturale completamente trascurato. In 10 secondi, professor Villanacci, indagare di più nel mondo degli intermediari finanziari che vendono questi prodotti? Beh, certamente anche lì è necessario, consideriamo soltanto che vi è stato un aumento, anche in quel caso incredibile, degli operatori. Secondo alcuni, io sono tra questi, ci sono troppi operatori e poco controllo sugli stessi. Ma anche perché lei citava prima il tema della carta revolving, e le carte revolving molto spesso, una volta sottoscritto un prestito con una finanziaria, arrivano a casa senza nessuna richiesta attiva da parte del consumatore, ma lì bastano 2 secondi per attivarle e provocare un sacco di danni. Torneremo, professor Villanacci, su questi aspetti. Perfetto. La ringrazio, le auguro una buona giornata. Buona giornata con buongiorno, i suoi studenti buongiorno. All'università. Alessandro. Eccoci qui, Deborah. Oggi parliamo di... c'è stata l'indagine settimana scorsa di Cittadinanza Attiva sugli asili nido comunali, liste d'attesa lunghissimi e ancora, insomma, molti bambini fuori e famiglie in difficoltà, e quindi faremo un po' il punto della situazione su queste strutture dei servizi gli per asili le mamme. Nido. Sì. A domani, il sondaggio nostro oggi, il televoto, un voto sul televoto, lo abolireste? Ha creato scompiglio a Sanremo, ancora ne crea polemiche, si parla di voto truccato. Alle 8.32 minuti, eccoci qui, le notizie in primo piano. Non c'è una nuova Tangentopoli, dice il presidente della Camera Fini, che propone una legge per impedire la candidatura per 5 anni a chi viene condannato con sentenza definitiva. Fini inoltre difende i magistrati che indagano sugli appalti, dicendo non si devono vergognare. Sui treni ad alta velocità scomparirà la divisione di prima e seconda classe, sostituita da 4 diversi livelli per qualità di servizio. Saranno previste anche le carrozze del silenzio, con divieto assoluto di far suonare i telefonini o chiacchierare. E per il calcio, 3 giornate al tecnico dell'Inter Mourinho dopo il gesto delle manette nella gara Inter-Sampdoria. Tra i nerazzurri squalificati anche per 2 giornate Muntari e Cambiasso e per 1 Samuel e Cordoba. E allora alle 8:33 minuti parliamo anche noi di questo televoto, questo strumento che sta facendo creare scompiglio, polemiche dopo Sanremo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Questo televoto, simbolo della democrazia popolare per alcuni, simbolo invece per altri anche del rischio di truffe, ancora oggi sui giornali se ne parla, secondo Libero, fino a 5 minuti prima della proclamazione di Scanu aveva vinto il trio, mandando ovviamente la RAI, secondo qualcuno, in subbuglio, a dire come facciamo ad andare sul palco a dire che hanno vinto questi tre e poi fortunatamente gli ultimi 5 minuti avrebbe vinto con 200.000 voti arrivati all'ultimo momento Scanu, ma sono tutti retroscena, per carità. Ma insomma, questo televoto a voi piace? Voi lo abolireste? Invece questa è la nostra domanda di oggi. C'è da dire che su Radio24.it per ora trionfano coloro che lo vorrebbero abolire, chissà perché, sono all'83%. Intanto saluto l'avvocato Carlo Rienzi, buongiorno presidente. Buongiorno, del Codacons. Voi del Codacons vi siete molto adombrati, tanto da fare che mettere in dubbio tutto? Ma noi vogliamo tutelare quelli che spendono questo euro e qualcosa in più per votare pensando di influire sulla scelta della migliore canzone, perché se tu fai spendere a 100.000 persone questo euro nell'illusione di far vincere una canzone, ma poi consenti, supponiamo, che si comprino dalle agenzie le telefonate per influire appunto poi sul voto finale, e tutti i soldi che io ho speso sono sprecati, quindi è una vera e propria truffa, quindi è una tutela della buona fede, cioè è inutile dire che è un voto popolare se poi c'è un meccanismo che popolare non può essere. Noi abbiamo chiesto già con Miss Italia, chiedemmo di vedere i tabulati e misteriosamente non ci furono dati, cioè ci sono stati rifiutati. Io non capisco perché la RAI rifiuti poi di dare questi elementi, cioè perché non faccia essa stessa, per la sua stessa immagine, un accertamento per escludere che vi sia collegamento tra le utenze che poi telefonano per votare questo o quell'altro, che significa dare prevalenza a chi ha più soldi, chi ha dalle spalle un imprenditore, sì, uno sponsor, eccetera. Chi mette in campo, qualcuno dice, le truppe cammellate. Questo non è illegale, però, non so, mobilitare un paese intero, votate per me. No, mobilitare il paese intero è una cosa diversa, perché simpatizzare per il proprio compaesano, ma quando siamo a livello di 200.000 voti non può mai essere un paese intero, è chiaro questo ragionamento, sì, no? Sì. Quindi il problema è capire se oltre i paesi interi che danno a... Diciamo che anche quello un po' interferisce in modo negativo sulla bellezza della canzone, perché votare il proprio Beniamino nato in quel paese piuttosto che la canzone più bella già è una cosa che non va, quindi già è una distorsione del sistema. No. Ma è l'altra, quella più brutta, diciamo, quella che qui si compra, sono le agenzie specializzate che vendono pacchi di televoto. Allora, voi volete vederci chiaro, giustamente. Intanto saluto, ritrovo con piacere Mara Maionchi, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Tra l'altro buongiorno. Vincitrice, possiamo dire, insomma, con Tony Maiello. Non ho vinto io. No, Tony ha vinto Tony. Ma è vero che l'ha messo a dieta? L'ha messo a dieta per andare... Ma quello da abbastanza, sì, sì, un po' di tempo, perché naturalmente a 20 anni la forma è necessaria non solo per un fatto estetico, ma anche per un fatto di salute, per cui il modo di mangiare sbagliato crea degli ingrassamenti sbagliati. Insomma, Tony Maiello ha vinto tra i giovani di Non ho l'età, la sua casa discografica. Allora, questo televoto, Maionchi, qui ieri Michele Serra è stato molto duro, ha detto diciamo chi ha votato. Ha votato metà Italia ed è quella che non legge libri e non va a teatro. Quale sarebbe la metà d'Italia? Il sud? Qual sarebbe la metà? Questo no, dice quella che sta davanti generale, alla TV, in generale, che non legge, non acculturata, che non... No? Quindi televoto non... Io mi ricordo Michele Serra a Sanremo, quando faceva l'inviato della Unità, mi ricordo che condivideva molti gusti con me. Per esempio, io un anno avevo Mango e lui era convinto che fosse un bravo artista. Non è molto difficile dire quello che dicevi, che la canzone può piacere anche chi non legge libri, o invece mi sembra una situazione, una... Allora possiamo fare il televoto per chi legge libri e per chi non legge libri, non so, faccio fatica a capire, cioè nel senso di dire, perché invece se c'era qualcuno acculturato avrebbe vinto chi? Non so, perché è difficile, a me personalmente rimane difficile. Senta, ma è democratico, non so, questo? Ma secondo lei uno che non legge, no, democratico, scusi. No, il televoto, il televoto. Ma ci sono sempre state discussioni sempre sui voti di Sanremo. A me poi se lo vogliono cambiare, magari, perché io sono stata vittima del televoto a Isator, dove in effetti su qualcuno che contavo invece il televoto me l'ha mandato a casa, ma credo che però io ho vissuto l'epoca del Totipo, ho vissuto l'epoca delle giurie nelle sedie Rai. Io credo che è una cosa tranquilla, e non so se quelli delle sedie Rai leggevano il libro o erano persone di cultura o non acculturati, però le discussioni su Sanremo, sulle finali e sulle votazioni ci sono sempre stati, per cui credo che forse di democratico ci sia stato sempre abbastanza poco, credo. Ma la domanda è, non so, chi deve giudicare, se, voglio dire, se io col mio televoto da casa devo giudicare, ma questo vale per tutti, non solo per Sanremo, o se invece ci vuole, non so, una giuria di persone competenti, no, l'ha vista l'orchestra. Quali sono che non le persone non lo so, gli orchestrali lì buttavano tutti gli spartiti. Beh, si sono arrabbiate. La canzone non piaceva, ma scusi, ma se io e lei andiamo ad osservare, voglio dire, quante canzoni non ci sarebbero? È vero che noi siamo nei confronti di Serra assolutamente acculturati, parlo per me, ma voglio dire, è vero, Sanremo, l'orchestra ha espresso un parere sfavorevole al Principe. Questo ha ragione, gli orchestrali non piaceva e l'hanno fatta, non so, ma solo sul Principe hanno avuto una discussione o su tutto? Io c'ero, l'ho visto per televisione, ma non mi ricordo più come, solo sul Principe hanno avuto una ritorsione. No, quando hanno detto che lì Marie Cagliani è stata bocciata, loro... No, bocciata, è arrivata stata, in sì, un'altra non è entrata in finale, ma vogliamo chiederlo, ma magari... Ma Marco Rossi non è mai arrivato dei primi tre, però, ma neanche... Meno male. Però, ma neanche... Ce ne sono stati anni. No, so meno male. Non so dire se per Serra chi vota Vasco è acculturato. No, questo adesso dovremmo andare indietro. Oppure se è difficile, perché un certo tipo di artisti magari a Sanremo non sono andati per lungo tempo. Voglio dire, ci sono artisti come artisti più acculturati e che non sono andati. Per cui questo mi sembra una cosa strana. Che sul voto ci possono essere delle perplessità, non ci sono dubbi, che però prendere un servizio e farlo votare costa un'esagerazione. Allora, io credo che tutto possa essere evitato, ma il costo è pazzesco, mi sembra, se non mi sbaglio. Questo secondo me nessuna casa discografica, soprattutto la mia, che siamo veramente pezzenti in confronto a tutto questo, non avremmo mai potuto organizzare. Beh, insomma, ci sono magari case discografiche. Lei mai, ci sono case discografiche, magari un po'. Non ho i mezzi economici, ma io non so dire se non so cosa costa, forse qualcuno più pratico. 75 centesimi, credo, quello di Sanremo, a voto. E quanto su quanto e che ne sarebbe? Bisogna, più uno ne dà è meglio, insomma. Che allora è. Diciamo che uno se dà 400.000 voti spende 400.000 euro? Sì, non mi faccia fare le tabelline. Una così. Tragedia, per me è una tragedia. Non so dire se una casa discografica in questo momento dove... Non lo so, comunque lei ne difende l'idea, anche la razza. Io tra l'altro... No, vabbè, ma ne difende, insomma, dice... Non le piace le critiche anche che ha fatto Michele Serra. Intanto c'è con noi anche, oltre all'avvocato Rienzi, voglio salutare Antonio Di Pollina, proprio di Repubblica, critico televisivo. Buongiorno Di Pollina. Buongiorno. E anche la nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno, con la voce che mi resta. Ecco, infatti, da tipica da Sanremo. Marta, quella degli orchestrali, ti faccio una domanda secca. Era una messa in scena, perché qualcuno ha detto anche questo, oppure era una critica vera e spontanea? Tu che eri lì. Secondo me c'era un po' di tutte e due, nel senso che comunque... Allora era già venuto in mente, anzi si dice che gli spartiti che sono volati erano gli spartiti di Volare, che era stata suonata due giorni prima. Sì. Però davvero, non è stata organizzata dalla RAI, soprattutto secondo me non è stata organizzata dal maestro, che anzi era piuttosto imbarazzato quando ne abbiamo parlato la mattina dopo, perché temeva in un certo senso delle ritorsioni, ma non solo su di lui ma soprattutto nei confronti dell'orchestra. Infatti ieri la fondazione, cioè praticamente la fondazione che regge l'orchestra, si è dissociata dalla protesta degli orchestrali. Come vedete, in Italia tutto è sempre complesso e Sanremo è sempre lo specchio dell'Italia. Eh sì, è il sunto della complessità. Antonio Di Pollina oggi Repubblica fa tre pagine centrali nella fabbrica del televoto. Che cos'è il televoto, Di Pollina? È l'emblema, la vittoria della democrazia televisiva, cioè io sto a casa e decido decido chi vince, oppure è la deriva della democrazia televisiva? Deriva, cioè sono entrambe parole grosse, sono entrambi concetti grossi, la ridimensionerei un po', il televoto ormai è una parte importante dell'indotto televisivo, è un meccanismo assolutamente, vorrei dire decisivo, ma non so quanto posso sostenere fino in fondo questa tesi, dell'intero baraccone. Tanto è vero che ci sono le case di produzione che producono i programmi e li vendono, li organizzano per la RAI, che adesso posseggono anche delle società che gestiscono il televoto, in modo che non sfugga nessun meandro dell'intero meccanismo per arrivare poi al prodotto finale. Quindi è una parte del meccanismo su cui potremo discutere all'infinito, e mi pare che Mara Maiocchi dicesse delle cose molto sagge. Sì. Cioè ci sono delle persone, mi stai dicendo, che lavorano nella TV e che hanno anche delle società che lucrano su questo tutto in maniera, sì, perché ma è ufficiale, sì, no? Sì, sì, no. Non è una cosa segreta, ci sono programmi per esempio La Fascino della De Filippi è uno. Sì, c'è anche una società della Magnolia, sì, che gestisce la situazione alla fonte. Ma su Repubblica, nelle famose pagine che citavi, c'è anche un'intervista a Ballandi che, difendendo completamente il meccanismo e tutto, ma dice una cosa anche abbastanza significativa, fa capire che ci sono trasmissioni in cui prima nasce il televoto e poi intorno al meccanismo del televoto e a quello che deve anche rendere il televoto si costruisce il programma. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, il voto sul televoto, l'85% di voi lo vorrebbe abolire, chissà. Avvocato Rienzi, allora sì, già sono state prese delle misure, per esempio Lele Mora un tempo disse: io ho comprato 25.000 voti per far vincere Walter Nudo all'Isola dei Famosi, sì, e infatti Walter Nudo vinse. Da allora sono state messe delle, come dire, dei filtri, non più di un tot di chiamate da un cellulare, eccetera. Cioè, voi cosa vorreste? Non so, una chiamata da cellulare, per esempio? Ma intanto io vorrei dire che secondo me Serra sbaglia quando critica che chi vota è la gente che vede la TV. È chiaro che chi vede il Festival di Sanremo è poi la persona che compra i dischi, quindi è giusto che siano loro a votare, non è questo il punto. Il punto è che queste persone si illudono di scegliere la canzone migliore quando con 50.000 euro una società produttrice della canzone, oppure per Miss Italia uno sponsor di una candidata, eccetera, può sicuramente far vincere il proprio candidato. Ecco, allora questa è una truffa, cioè se io spendo dei denari con l'illusione di ottenere un risultato, mi si dice che posso ottenerlo, mentre invece nella realtà il meccanismo è tale per cui poi è vano, questa è una truffa. Allora bisogna fare in modo che o siano talmente tanti questi televoti per cui non si possa influire se non con una somma tanto sproporzionata da non valerne la pena, e che però non è possibile farlo perché sono determinati, a meno che non sia gratuito. Ecco, se si riesce a fare gratuito, ma se si facesse gratuito scomparirebbe subito perché crolla tutto, crolla il sistema. Noi abbiamo calcolato che chi guadagna da Miss Italia, da Lotteria Italia, dai festival, eccetera, non è tanto la RAI, ma in termini pecuniari guadagnano appunto la Telecom e le società produttrici subappaltatrici. Società che, e qui non so, adesso non ho ancora letto i giornali, non ho letto cosa ha detto Di Pollina, ma noi abbiamo avuto delle segnalazioni che abbiamo trasmesso alla Guardia di Finanza, società che sono cointeressate in trasmissioni da cui vengono fuori i candidati. Cioè, che vuol allora dire, questo coinciden- non va bene. No, perché se io affido il televoto a X e X è lo sponsor poi di una trasmissione che ha tirato fuori un candidato con una canzone, insomma, non lo so, cioè, sì, cioè... il sospetto è d'obbligo, no, non è corretto. C'è un conflitto di interesse anche su questo. Però tutto questo si potrebbe eliminare o attraverso un controllo effettivo o attraverso il divieto esplicito di... pacchi di televoto fra di loro collegati. Capisco che è difficile, difficile anche no, infatti anche a livello di controllo centrale di computer. Poi lei dice gestore, chiaramente i gestori offrono un servizio, devono guadagnare, credo che guadagnino il 50% del televoto. Sentiamo Carlo da Napoli. Carlo, che ne pensa? Ci ha chiamato all'800 24 00 24 e leggiamo a lei, a capo popolo, a decidere del televoto. Che dice? Niente meno, buongiorno. Io avevo chiamato soltanto per aderire al televoto voto con una notazione ironica, ma neanche troppo, per dire meglio abolire il televoto prima che qualcuno venga in mente di applicarlo anche alla politica, che mi sembra che sia sempre possibile, ci siamo avviati già ampiamente verso cose di questo genere. Poi per il resto sono pienamente d'accordo con chi mi ha preceduto, con l'avvocato Rienzi, il presidente del Codacons. E voglio dire, insomma, che basterebbe mettere i tabulati, cioè, insomma, se proprio si volesse mantenere il televoto bisognerebbe renderlo controllabile, quindi mettere a disposizione... Ma in teoria è controllabile, cioè ci sono appunto tutti dei filtri, non si può chiamare dallo stesso numero di cellulare più di tot volte. A Sanremo più di 5 chiamate dallo stesso cellulare per esempio non si potevano fare, ma sa, è tutta una questione di se uno vuole cercare di aggirare, ci saranno dei sistemi per aggirare, no? Anche questo. Pensavo mettere i tabulati delle chiamate a disposizione di tutti i concorrenti, insomma, di tutte le case discografiche. Ah, i tabulati. Questo credo non si possa fare. Marta Cagnola, la RAI non rivelerà nulla di questo televoto. Mi sembra di capire che il regolamento supremo. Nulla, e non lo fa mai, ha ribadito che non lo farà e non c'è proprio margine di manovra su questo. Io però ho ragionato, come si suol dire, con una fonte molto apprezzata quando non vogliono essere virgolettate. Ho parlato alla fine del festival così in maniera molto tranquilla con il direttore artistico uscente Gianmarco Massi, che non vuole più farlo. Lui ha detto che è contrarissimo al televoto, però il televoto piace perché comunque tiene la gente col fiato sospeso e dà questa illusione che sia uno strumento democratico. Lui dice che va temperato con le cosiddette giurie demoscopiche, cioè quelle fatte con un panel studiato da una società, portate in un luogo nel quale in maniera controllata, cioè con una qualità sufficiente, vengono trasmesse le canzoni, eccetera. Qual è la differenza? Tutto questo costa molto, mentre sul televoto ci si guadagna. Ed è più immediato, immagino sia anche. È immediato, non sono del tutto contraria perché comunque la gente vuole essere, e giustamente, un po' coinvolta. Io appunto la signora Maionchi ricordava il Totip quando si votava con la schedina del Totip e i cantanti che vincevano poi venivano fotografati che si portavano via il cavallo perché vincevano anche un cavallo. E un po' l'illusione di poter contribuire a una vittoria ci vuole, però giustamente andrebbe temperato perlomeno questo voto, se non magari controllato. Vediamo che dice Simone da Milano. Sì, pronto. Dica. Buongiorno, salve. No, il mio intervento è un po' provocatorio. Sì, bene. Mi sembra assurdo che stiamo parlando di Sanremo in un momento in cui l'Italia si sta scoprendo di nuovo corrotta, implicata in tante questioni, lo dico che con un voto anche il Presidente del Consiglio. E quindi ne parliamo tutti i giorni, Simone. Ci dobbiamo flagellare, guardi, abbiamo sbagliato, parliamo di Sanremo. Ogni tanto anche noi siamo un po' leggeri e popolari, che sbagliamo, Simone. Mi dica. Però non vorrei che fosse anche una manovra di distorsiva, togliere l'attenzione, certo, alle cose importanti. Ascolti, sto parlando di Sanremo perché non voglio parlare di Berlusconi. Ecco. No, ma non è solo quello, è il sistema. L'altro giorno hanno preso uno che pagava 5.000 euro a un assessore, e questo deve essere detto continuamente. Sta parlando di Pennisi, ci ho fatto una trasmissione, che devo fare? Ne devo far 10. Però la considerazione è che ormai non ci sono più imprenditori disposti a pagare e devono essere terrorizzati. Da un sano terrore questi politici che diciamo che strapazzano chi deve lavorare. Va bene, va bene. Grazie Simone, ho anche intervistato Luca Magni, quello che mandò in galera Mario Chiesa. Che devo fare? Se vuole lo reintervisto un paio di volte ancora. Vorrei chiudere con Mara Maionchi, eccoci qua. Maionchi, è un'illusione, dice Rienzi, di votare il vincitore, ma in realtà dietro c'è qualcosa che non piace. Allora, è un'illusione. Ho iniziato anche il fatto dicendo che dovevo trovare ancora il famoso giurato che tutti gli anni per 40 anni qualcosa mi ha fregato al festival. Mi sembra che perché un giurato, perché c'era sempre qualcuno, si sapeva bene com'è. Mi dispiace molto questa situazione, mi fa molto dispiacere, non sapevo il televoto, io per 3 anni me lo sono cuccato a X Factor e quest'anno a Festival Sanremo, anche se Tony, devo dire, non so quale interesse aveva ancora una società che faceva quel lavoro, perché era 3 anni che era fuori, oltretutto non l'avevano anche eliminato in sede finale, per cui mamma mia. Può darsi che abbia vinto perché era il più bravo, voglio dire, ecco, non lo escludiamo. Me lo auguro perché interessi tutt'oni non ce li ha nessuno, non è di una multinazionale, non c'è stato di recente, non ha partecipato a nessun talent, per cui mi auguro che Tony si sia almeno salvato. Però devo dire una cosa, che forse io credo che dovunque, comunque, si possono portare dei miglioramenti ai voti, anche soprattutto se popolari, si debba assolutamente fare. Grazie, ci fermiamo qui. Mara Maionchi, Marta Cagnola, Antonio Di Pollina e l'avvocato Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Grazie a tutti, domani torneremo a parlare di cose pesanti. Con Sara Spreafico in redazione, già pronta lì, si è un po' già corrucciata a parlare di cose pesanti domani, e Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino, ci ritroviamo domani. A salute.